I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. On the issues, for example, energy, which is obviously an incredibly important issue out here in California, the mantra of the McCain-Palin ticket has been drill, baby, drill. Do you think that's the right approach? You are absolutely incorrect. I am sorry to it correct was chanted you. Can I, at the can convention. No, io vorrei dire a Campbell Brown, che si sta un po' ribellando, che quando Arnold Schwarzenegger ti dice you are absolutely incorrect, tu stai completamente imprecisa nelle tue affermazioni. Io mi fermerei, direi, ah vabbè, caro governatore, dica lei, allora me lo spieghi lei. Questa è una conversazione avvenuta poche ore fra la Anchor Woman, che si sta dando più da fare, di CNN, questa Campbell Brown, che ormai impazza un po', no, con questo suo stile provocatorio. Qui sta agitando la matita sotto il naso di Terminator e dicendo: ma insomma, com'è questa storia che McCain vuole cercare petrolio sulla costa della California e lei non si fa sentire abbastanza? E Schwarzenegger dice: no, non è così. In realtà McCain sì, dice drill baby drill, scava ragazza scava, ma poi dice anche che ci sono molte strade alternative al reperimento di energia e che queste vanno battute con intensità e convinzione. Tutto ciò per introdurre l'ultimo arrivato nel carrozzone repubblicano elettorale, che ormai ha 3 giorni e uno spicciolo così di ore dal traguardo, tende ad accogliere fondamentalmente chiunque abbia cose utili da portare in dote, soprattutto per conquistare quell'Ohio senza il quale i presidenti repubblicani non diventano tali. Se un presidente repubblicano vuole diventare tale, studiano i sondaggisti e gli esperti di statistiche, deve prendere l'Ohio, e l'Ohio per adesso non è vicinissimo alla conquista da parte di John McCain, ma ci sono altresì dei confortanti segni di rimonta, o almeno questo va dicendo John McCain nelle sue frenetiche, torrenziali apparizioni televisive. Lo si è appena visto sulla ABC, dove ha detto che a lui di essere sfavorito non gliene frega niente. Ha detto: stiamo rimontando, mi sento bene in questa condizione di, così, di underdog, di sfavorito, di non favorito dai sondaggi, ma vedrete che il risultato alla fine mi sorriderà. Poi ha spiegato di voler concentrare i suoi ultimi giorni di campagna elettorale sul nodo dell'economia, perché ha ripetuto ancora: le politiche economiche di Barack Obama sono troppo di sinistra per l'americano medio. Del resto Barack l'aveva detto, non come qualcuno di più famoso di lui: il gallo non canterà che non mi daranno del comunista. E poi, scherzando, aveva aggiunto: mi daranno del comunista perché da ragazzino prestavo i miei giocattoli agli amichetti. Sono veramente gli ultimi sgoccioli di campagna elettorale. Alcune cose vanno dette riguardo alla presentazione che vi abbiamo fatto ieri del mega spot, del filmato, chiamatelo come volete, con cui Barack Obama, pagando di tasca della sua campagna svariati milioni di dollari, più 2 o 3 milioni di dollari per la produzione e la realizzazione di questo filmato di 30 minuti, firmato da David Guggenheim, lo stesso regista che si è occupato del film di Al Gore, Una scomoda verità. Ebbene, gli esiti di audience sono eccellenti, siamo ben oltre i 32-33 milioni di spettatori, con una share che va sopra il 20-21%, risultati eccellenti per un tipo di prodotto di questo genere. L'ultimo, che si ricordava paragonabile, venne realizzato nel 92 da Ross Perot e ottenne risultati pari circa al 50% riguardo a quelli di Barack Obama. C Ci è piaciuto molto leggere su Time, sul sito di Time, una intervista a David Axelrod, personaggio politicamente interessante ma strategicamente interessantissimo. David Axelrod è lo stratega, il capo stratega alle spalle di Barack Obama, è l'uomo che ha guidato con minuziosa puntigliosità, con una attenzione maniacale le mosse di Barack Obama passo passo fin dai primi albori della sua rincorsa elettorale. È un uomo peraltro particolare, anche piuttosto introverso, difficilmente si concede ai microfoni, è un newyorkese del Lower East Side, trapiantato poi a Chicago, ha lavorato come giornalista, ha lavorato brevemente per le istituzioni, poi ha aperto la sua società di consulenze politiche e lì ha fatto fortuna. Tra l'altro a lui deve la sua elezione a Harold Washington, il primo sindaco di colore di Chicago. A lui doveva molto, fin quando poi un bel giorno non litigarono John Edwards nel 2004. Infatti David Axelrod fu capo stratega della sua campagna fino a un certo punto, poi tra lui e Edwards cominciarono ad apparire dei dissapori che culminarono poi praticamente in una separazione. Lui rimase a bordo della campagna ma con compiti minori, ha accettato poi l'offerta di Barack Obama, anche se racconta lui stesso in altre interviste che al primo momento in effetti non era stato straordinariamente impressionato dalla personalità di Obama. Ci ha messo un po' a capirlo, ci ha messo un po' a comprenderne la qualità e la quantità anche di ambizioni, e poi ha deciso di sposare la sua causa e di provare a rendere efficaci i punti di partenza che Barack Obama gli poneva come indispensabili, ad esempio la necessità di condurre una campagna elettorale che fosse prima di tutto grassroots, che fosse prima di tutto di base, che dal basso salisse su verso l'alto. Non a caso in questa intervista si vanta a un certo punto, dice: il 4 novembre, se tutto andrà bene, se ad esempio non ci sarà un nubifragio come quello che è in corso adesso in Ohio, dove un comizio di Joe McCain è stato sospeso proprio a causa della pioggia. Insomma, se le cose andranno per il verso giusto, ci saranno 8 milioni di attivisti di Barack Obama in giro per le strade americane a mandare la gente a votare, a cercare di convincere gli ultimi indecisi a fare propaganda per il candidato democratico. Almeno un paio di altre cose interessanti, dice David Axelrod. Quella che ci piace di più raccontarvi riguarda l'effetto Bradley, ve l'abbiamo già raccontato. L'effetto Bradley è quello che si rifà al caso del sindaco di Los Angeles allorché piazzò la propria candidatura a governatore della California. Ebbene, Bradley arrivò in fondo con dei sondaggi assolutamente favorevoli, poi il giorno del voto perse in modo flagrante. Perse, si capì, per un motivo molto semplice, che molta gente che veniva interrogata dai sondaggi non diceva la verità o al contrario diceva addirittura di fare ciò che poi dentro il segreto dell'urna non avrebbe fatto. In sostanza molti dicevano di votare per lui e non lo facevano, molti non dicevano di votare contro di lui. Tutto ciò è stato poi ridotto, è stato riportato a una questione di ordine razziale, ovvero è possibile che un candidato nero possa dover scontare, no, dai propri valori in termini di sondaggi una certa percentuale dovuta fondamentalmente alla ritrosia di certi elettori, una volta interrogati dai sondaggisti, ad ammettere che votano contro di loro o che non apprezzano la loro figura politica. Ebbene, David Axelrod ha parlato proprio dell'effetto Bradley dicendo: guardate, sapete una cosa, io non solo non ne ho paura, ma neanche ci credo. Per quanto mi riguarda, io penso che non ci sia un fattore razza in questa campagna elettorale, che la campagna del 2008 anzi abbia avuto la capacità di stare lontana dalla questione razziale intesa nel termine più pericoloso, e soprattutto abbia dimostrato una cosa ancora più importante, che gli americani americani ormai sono oltre. Aver portato Barack Obama fino a questo punto per me significa esattamente questo: gli americani hanno ormai superato, hanno storicizzato, hanno digerito la questione razziale, e prova ne sia il fatto che tutta la loro attenzione ormai è dedicata ad altre questioni, che sono quelle che sono in discussione ormai insistentemente nelle ultime settimane, questione essenzialmente di ordine economico, ma non solo, attinenti anche alle questioni della sanità e dell'educazione. Di razza non se ne parla, Barack Obama è a un passo dalla Casa Bianca. David Axelrod vuole mettere l'accento su questa su questo dato, vuole mettere anche l'accento sulla performance eccezionale che il suo protetto, l'uomo per il quale ha lavorato, l'uomo del quale si è messo al servizio con risultati straordinari, sta ottenendo. Delicatezze dei Weekend, questa è Amalia Greco, la sua versione assolutamente stravagante di Moon River. Leggevamo un'altra stravaganza mentre la ascoltavamo, la home page di CNN riporta una notizia stranissima che ti vado a leggere, caro Emiliano. Le motociclette sono più mortali, cioè hanno provocato più vittime tra i Marines dei combattimenti in Iraq, perché pare che ci sono state più vittime di incidenti motociclistici. Notizia tragica e bizzarra. Tra i Marines, sì, è soprattutto l'approccio, no? Tanto più in un momento come questo, però è una notizia ufficiale. Ma chi si è preso la briga di fare questo calcolo? Assolutamente strano. Secondo me il corpo dei Marines e il medesimo ufficio stampa, anche perché pare che ci sia una specie di caccia, non alle streghe, ma alle moto all'interno del corpo dei Marines. Prima pagina. Allora, vediamo le notizie dalla Cina. Restiamo per un attimo ancora sul filone ormai caro qui a Jefferson Ming della melamina, certo. Perché in fondo oggi i giornali cinesi hanno ammesso, finalmente hanno scritto, hanno messo nero su bianco quello che per esempio ieri Daniele Barbone ci ha spiegato sulla melamina, cioè hanno scritto chiaramente che la melamina è stata aggiunta al mangime per animali e quindi poi è arrivata nel latte e nelle uova. Però ci sono interventi anche di alcuni corrispondenti stranieri che vivono in Cina da tanti anni, che ammettono che questa franchezza dei toni e delle parole usate dai giornali cinesi è piuttosto insolita, può essere un segno dei tempi. E tra l'altro poi gli organi di informazione cinesi rincarano la dose, perché dicono che lasciano intendere perlomeno che l'aggiunta di melamina ai mangimi animali fosse una pratica molto diffusa, quindi forse ci saranno nuove sul versante dello scandalo della melamina, direi globale, anche se poi naturalmente la Cina è la prima colpita, la prima responsabile. Giornali americani tornano a parlare di David Petraeus, colui che ebbe il controllo delle operazioni in Iraq. Oggi ha assunto ufficialmente la responsabilità delle guerre, questa è la dizione, in Iraq e Afghanistan, nel nuovo ruolo di responsabile del comando centrale in Florida. Vi ricordo che Petraeus per 20 mesi era stato in Iraq al comando diretto delle truppe americane nel paese, ottenendo indubbi e molto celebrati successi soprattutto nella riduzione di attività di guerriglia e di attentati. La nuova carica alla testa del CENTCOM, così si chiama il comando centrale, vede Petraeus assumere la responsabilità dell'intero scacchiere del Medio Oriente, con due guerre in corso e situazioni di tensione in numerosi altri paesi, numerosi altri focolai, come naturalmente a cominciare dall'Iran e Pakistan. Le capacità del personaggio sono comprovate, anche il suo equilibrio e la sua affidabilità, quindi questa sembra una buona notizia. Vedremo mai in un'amministrazione americana a gennaio? Ma girava la voce. È sicuramente un personaggio di gradimento bipartisan. Potrebbe stare bene sia con Obama che con McCain. Certamente. Allora, di nuovo Cina, e siamo sempre nell'ambito delle intossicazioni, il filone alimentare. Stefano, tu ti ricorderai sicuramente lo scandalo dei ravioli avariati che accese la miccia tra Giappone e Cina, che hanno tanti motivi. Me li mandò per traversi, sono goloso di ravioli litigare. Cinesi. Allora, c'era stato questo che aveva inasprito i rapporti tra Cina e Giappone, che poi invece a livello di diplomazia stanno andando piuttosto bene in questi ultimi tempi. Però oggi la Cina replica con altre accuse invece rivolte ai cugini del Giappone, non so come chiamarli, e dice infatti l'agenzia Nuova Cina che sono state trovate delle sostanze chimiche tossiche nella mostarda e nella salsa di soia che arrivano appunto dal Giappone. Non vengono fatti i nomi dei produttori giapponesi sotto accusa, ma la Nuova Cina, l'agenzia, dice che si tratta di tre diverse compagnie anche di peso, anche di una certa importanza. E poi comunque non si fa cenno a casi di malattia tra i cinesi, quindi per il momento non ci sono cinesi intossicati dai prodotti made in Japan. Ci hanno decisamente preso gusto, perché dopo, seguendo le tracce, no, di Sarah Palin, adesso sarà John McCain ad andare alla Saturday Night Live sabato, anche perché questo sabato mai più, quindi c'è poco da scherzare. Ma gli indici record d'ascolto ottenuti da Sarah Palin nel suo duetto con Alec Baldwin, che tra l'altro ci sta campando di rendita e fa il giro delle televisioni a riraccontarlo, hanno spinto gli strateghi di McCain a far fare la stessa cosa al candidato presidente repubblicano, che quindi, e non è neanche la prima volta, insomma, tra l'altro McCain è un personaggio spiritoso, saprà sicuramente cavarsela molto bene con il suo umorismo, è anche un grande raccontatore di barzellette, del resto la politica e le barzellette sappiamo bene vanno di moda e vanno d'accordo. L'ultima volta c'era stato peraltro a maggio, subito dopo aver ottenuto la candidatura repubblicana, aveva lanciato lì la sua corsa presidenziale. Domani sono piuttosto sicuro ci andrà giù pesante. Ma c'è un sosia anche di McCain come per la Palin? Sì, sì, più d'uno, quindi... anche interessante tra l'altro. Cioè non si può andare al Saturday Live senza sosia, praticamente, è previsto dal copione. Io direi di più, non sei nessuno se non hai sosia, ecco. Certo. Allora, ritroviamo le Olimpiadi che ci hanno tenuto compagnia prima e durante per tanti mesi qui a Jefferson. Intanto Ming, a Pechino. Perché sembra che le Olimpiadi abbiano lasciato tra i tanti effetti positivi anche una cosa importante, cioè che i cinesi sono migliorati sul versante del Galateo. Insomma, i cinesi hanno fatto molte lezioni per prepararsi al meglio a questo appuntamento mondiale, per esempio per limitare i danni di alcune loro usanze, come per esempio sputare a piè sospinto in ogni luogo, in ogni dove. E a quanto pare, ecco, per esempio, questa abitudine, questa usanza di sputare sia un po' ridotta per effetto appunto delle buone maniere imparate durante le Olimpiadi. Pare per esempio che sia stato fatto un mega sondaggio con 13.000 persone coinvolte, secondo il quale l'indice di educazione dei cinesi è progredito di 10 punti, arrivando su una scala da 0 a 100 alla bellezza di una buona media, 82,68. Per esempio, l'anno scorso il 2,5% degli interrogati affermava di sputare dovunque, mentre per esempio adesso di sputare regolarmente con un certo ritmo sostenuto, cioè. E invece adesso dice di sputare regolarmente soltanto lo 0,75%, cioè. Quindi c'è stato un buon calo in questo senso. Poi per esempio è sceso dall'1,5 allo 0,67% il numero di persone che ammettono di passare deliberatamente davanti nelle code agli sportelli, tant'è vero che l'11 di ogni mese ormai è diventato il giorno della fila volontaria, quindi in qualche modo si vuol far sentire in colpa le persone che cercano di passare avanti. La fila volontaria, cioè bisogna rispettare la fila, cosa che forse i cinesi fino a pochi mesi fa non riuscivano a fare così bene. Presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Allora, il percorso di oggi, on the trail today, Obama e McCain effigiati su una cartina degli Stati Uniti sono tornati entrambi verso nord dopo aver battuto la Florida nei giorni scorsi. Sono Indiana e Ohio al centro della loro attenzione, Biden in Indiana e Ohio anch'egli, mentre Sarah Palin si dedica alla Pennsylvania. Vabbè, grazie a questa bella foto documentaria con titolo Bad Habits Die Hard, ce la manda Simo per dirci che la questione degli sputazzi, insomma, trattata approfondita direi da Emiliano poco fa, non è solo questione cinese, ci fa sapere. Qui siamo in Malesia e ci sono fior di cartelli stradali, insomma quelli col divieto, no? Che dicono no spitting, per favore non sputate. Comincia l'ultimo weekend preelettorale, c'è tensione, c'è emozione, c'è stanchezza, ci sono anche un po' di bilancini da fare magari, no? Quelli prima del fatale verdetto. Proviamo a fare due chiacchiere a questo riguardo con Giancarlo Loquenzi, il direttore dell'Occidentale, un giornale online. Giancarlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, la prima domanda che ti vorrei porre più o meno è questa, è di tono personale, ovvero tu come esperto, come appassionato, come personaggio dedito sia professionalmente ma immagino anche emotivamente a seguire le vicende di questa interminabile elezione. Come arrivi a questo benedetto ultimo weekend? Cioè, con quali sensazioni, sia di ordine politico, se vogliamo, ma anche con quali suggestioni riguardo a questo, insomma, gigantesco, ricchissimo scenario dell'America che prova a darsi delle soluzioni? Beh, guarda, è stata una lunga traversata. L'occidentale è nato ormai quasi 2 anni fa e la primissima rubrica che noi abbiamo aperto sull'occidentale si chiamava tuttora Pennsylvania Avenue ed era dedicata a seguire la campagna elettorale per queste presidenziali. Quindi sono quasi 2 anni che noi la seguiamo quasi giorno dopo giorno, sì. E anch'io personalmente come direttore del giornale. Io arrivo oggi, diciamo, con una parte razionale di me che, se dovesse mettere il portafoglio su un candidato, lo metterebbe ovviamente su Barack Obama. La parte meno razionale di me, diciamo, più passionale, più politica, si sente tutt'oggi di non escludere una sorpresa nelle urne. Mm-hmm. Io trovo ancora stupefacente come il vecchio McCain, con tutto quello che è successo, con la potenza di fuoco che ha Obama, con gli spot multimiliardari che da soli fanno quasi più ascoltatori che non i dibattiti presidenziali, riesca ancora oggi a salire e scendere nei sondaggi ed essere ad un pugno di percentuale di distanza da un dominatore come Obama. Quindi tu non lo giudichi il perdente predestinato voluto dai repubblicani per superare il momento di bassa? Se l'hai cavata bene, secondo te? Tra tutti i candidati alle primarie repubblicane non ce n'era uno che avrebbe fatto lo stesso miracolo di arrivare a una settimana dal voto con uno sfidante come Obama, con una situazione interna, economica, internazionale come quella che c'è, con 2 mandati di Bush. Non ce n'era uno tra i repubblicani che poteva fare così bene come ha fatto Obama, come ha fatto McCain. E all'indomani, insomma, dei 2 mesi passa nei quali abbiamo imparato a conoscerla, invece di Sarah Palin, sia della scelta di Sarah Palin che del personaggio in se stesso, compresi queste ultime turbulenze, no, negli ultimi giorni in cui sembrano un po' 2 separati in casa, insomma, non sembra che regni proprio una gran armonia, ma di questo quadro che idea ti sei fatto? Anche qui, guarda, i sondaggi sono molto chiari, è sempre più alta la percentuale di coloro che non ritengono Sarah Palin adatta all'incarico di vicepresidente, e sono molti quelli che in America, rispondendo ai sondaggi, pensano che nell'eventualità di una sconfitta di McCain una buona parte di responsabilità sarebbe della scelta del suo running mate. Io però continuo a pensare che scavando un'intuizione giusta nella scelta della Palin c'è, e i disaccordi, i disamori che ci sono stati in queste ultime settimane io credo che siano più stati un fatto tra staff, tra gelosie di staff, tra voglia di protagonismi, tra diversi atteggiamenti mediatici che lo staff di Sarah Palin aveva rispetto a quello di McCain, che non una vera lite o un vero disaccordo tra i due, che invece mi sono sembrati sempre in perfetta sintonia. Ci credi alla possibilità di una prospettiva futura di Palin, ovvero che diventi stabilmente un personaggio addirittura di caratura di primo piano, da possibile nomination in caso di sconfitta per i repubblicani, la Palin 2012, diciamo? Ma guarda, questo è un po' troppo presto per dirlo, bisogna anche vedere il risultato, anche nell'ambito della sconfitta ci sono tanti modi di perdere, soprattutto bisogna vedere come il Partito Repubblicano, sempre nell'eventualità della sconfitta, uscirà da queste elezioni. C'è una grandissima preoccupazione anche in ambito conservatore, bastava vedere un interessante articolo di William Christo qualche giorno fa sul New York Times, che diceva attenzione, qui non soltanto si rischia di perdere, ma si rischia di perdere drammaticamente anche il Senato. Perché quello che si di cui anche i nostri giornali un po' per necessità, un po' per forza non raccontano, è che non si vota solo per un presidente. Esatto. E per i repubblicani potrebbe essere veramente una grande preoccupazione nel mondo conservatore per il fatto che questa possa essere una one party victory, cioè il Partito Democratico vince tutto, vince la Casa Bianca, vince il Senato e vince il Congresso. Soprattutto, a certi livelli fa più paura Nancy Pelosi di Barack Obama. Soprattutto sai perché? Perché mai come in questa fase il governo americano ha un potere così forte nell'economia finanziaria e anche nell'economia reale. Certo. Dopo il famoso bailout, dopo centinaia di miliardi di dollari investiti nelle banche per salvare i crediti falliti, per salvare i mutui e tutto questo, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti il governo ha un potere reale nell'economia, come se avesse a sua disposizione una gigantesca IRI. E il fatto che questo potere nell'economia sia in mano tutto completamente ai democratici, in una sorta di New Deal liberal, diciamo socialista, che in qualche modo Obama potrebbe incarnare, terrorizza moltissimi all'interno del partito e credo che cominci anche un po' a spaventare una buona parte dell'elettorato, perché è un potere enorme sull'economia ed è difficile pensare che nella nuova amministrazione non venga qualche tentazione di prendersi qualche vantaggio, cioè di favorire i propri, di prendersi qualche vendetta con gli avversari, quando hai in mano le leve così potenti dell'economia americana, cosa che altri governi non hanno avuto, la tentazione di usarle rischia di essere molto forte. Quando ce l'hai tutte, certo. Per concludere, ti volevo chiedere un ultimo parere su questa intervista di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma, pubblicata da Time a David Axelrod, un personaggio che personalmente apprezzo, al di là delle simpatie, degli indirizzi politici, per la puntigliosa meticolosità con cui ha guidato, devo dire, forse addirittura in certi casi teleguidato la campagna di Obama, facendo tante scelte, alcune rischiose, ma assumendosi dei rischi anche di comunicazione, insomma facendo un lavoro piuttosto sofisticato i cui risultati vediamo tutti. Nell'intervista Axelrod all'intervistatore che gli domanda se teme il Bradley Effect, l'effetto Bradley di ordine razziale al momento del voto, dice di non temerlo affatto, ma va oltre. Dice anzi, guardate, cerchiamo di capire una cosa molto importante. Questa elezione in campo razziale, se si parla di razza, questa campagna elettorale è stato un grande fattore innovativo, perché ha dimostrato che l'America è andata decisamente oltre quel fattore e quell'ostacolo. Sei d'accordo? Ma io credo che Axelrod abbia ragione quando dice che l'elemento razziale c'entra poco con questa campagna elettorale, quindi se ci saranno delle sorprese nelle urne non saranno dovute a un rigurgito razzista dell'America, come qualcuno potrebbe voler dire nell'eventualità di una sconfitta di Obama. Io quello che credo invece è un'altra cosa, un po' più complessa. Mm-hmm. Credo che Axelrod abbia trasformato per la prima volta una campagna elettorale in un movimento. La campagna elettorale di Obama non è stata una campagna elettorale tradizionale, ma lui ha fatto sorgere un movimento, l'obamismo. Certo. È un movimento molto forte, molto pervasivo, infatti la folla è un elemento che non si è mai visto nelle campagne elettorali. Non a caso nell'intervista lui si vanta con malcelato orgoglio che conta di portare 8 milioni di attivisti per strada il 4 l'elemento novembre. Della folla, della crowd nelle piazze, un elemento che gli americani non conoscono, anzi hanno sempre guardato con un po' di sospetto come un fenomeno latinoamericano, asiatico o africano. Le folle in piazza sono un elemento estraneo alla campagna elettorale. Quello di Obama è un movimento molto forte, ma come tutti i movimenti crea grandissima forza di appartenenza, ma anche grandissima forza di esclusione. Un movimento non unisce, o ci sei dentro o ci sei fuori. Questo è un elemento che potremmo vedere all'opera dopo le elezioni, e di cui però dobbiamo tenere conto, molto più che del fenomeno razziale, negli exit poll. Attenzione agli exit poll, perché sono sicuro che gli exit poll saranno pieni di entusiasti obamiani che diranno di aver votato Obama, molto più di quanti non siano quelli che di McCain diranno di aver votato McCain. Se voi guardate anche nelle primarie, erano molti più, negli exit poll era quasi sempre Obama avanti e poi magari vinceva la Clinton, perché Obama ha creato un movimento di talmente vasta portata di entusiasmo che erano molti più quelli che si fermavano a rivotare essendo entusiasti obamiani che non votanti della Clinton, e potrebbe riprodursi anche con le elezioni vere e proprie e con McCain. Quindi attenzione, lo dico in generale anche ai media, quindi prendere gli exit poll, ma lì l'effetto non è un effetto razziale, è un effetto, diciamo, del movimentismo, dell'obamismo, che la campagna elettorale di Obama e i suoi spin doctor hanno creato, che è un movimento che lo ha portato in alto, ma che potrebbe essere anche molto pericoloso e difficile da gestire, perché unisce quelli che sono dalla sua parte, ma esclude tutti quelli che non si sentono di appartenere a quel movimento. Grazie Giancarlo, quindi tu ci, in pratica ci lanci l'idea più che di un Brother Effect, di un Axelrod Effect. Vedremo se queste ipotesi corrispondono a verità. Ci risentiamo nei prossimi giorni, quando il momento del voto sarà realtà. Proprio per corrispondere alle osservazioni, anche alle provocazioni pronunciate dall'Oquenzi, il nostro ultimo ospite qui in trasmissione, relative alla affidabilità dei sondaggi, gli exit poll per queste elezioni americane, arriva puntuale un exit poll, tra l'altro della firma di settore così più stravagante, anche più solitaria, Zogby è il marchio di sondaggi che spesso sta un po' da sé, va un po' per una sua strada, e adesso avrebbe perso, no? Perso proprio per strada la prudenza, se è vero che il suo sondaggio, aggiornato quotidianamente, indicherebbe nel democratico Obama un favorito strasicuro, il repubblicano McCain al 43%, scrive Zogby, continua a non guadagnare terreno. Obama al 50%, scrive Zogby, mantiene il suo vantaggio di 7 punti. Tra l'altro Zogby, per tradizione poco incline a trarre conclusioni azzardate, è sempre stato quello che ha accordato un margine più ristretto a Barack Obama. Ma con i sondaggi la finiamo qua, ricominciamo naturalmente lunedì. E invece ritroviamo un vecchio amico di Jefferson Ming, si chiama Gabriele Battaglia, è un fotografo e anche un blogger e soprattutto è un appassionato di Cina, tra l'altro governa un sito internet www.chengying.net. Chen si scrive C-H-E-N, lineetta Ing, Y-I-N-G, dove si trovano le sue foto, la sua attività principale, foto soprattutto di volti, scattate durante l'ultimo viaggio in Cina, nell'estremo occidente della Cina, nella regione a maggioranza uigura e di religione musulmana. Di solito finisce nelle cronache dei giornali, Gabriele, per questioni, no, legate a attività terroristiche, con le sue documentazioni immagini fotografiche. Comunque abbiamo fatto una bella chiacchierata con Battaglia relativa al suo ultimo viaggio, la proporremo a puntate e cominciamo oggi a inoltrarci in questa ennesima attraversata della Cina. E per introdurci all'atmosfera dello Xinjiang, ecco una breve descrizione del paesaggio ad opera di Gabriele Battaglia. La regione autonoma Xinjiang è la provincia più grande della Cina, quindi noi immaginiamoci una provincia che occupa circa un sesto del territorio cinese e quindi molto più grande dell'Italia. Questa provincia è popolata semplicemente da circa 8 milioni di persone e quindi immaginiamoci immensi spazi poco popolati, e al centro dello Xinjiang c'è il deserto del Taklamakan, che un tempo passava per essere uno dei deserti più difficili, più crudeli dal punto di vista anche del tributo di vite umane che richiedevano del pianeta. Adesso vabbè, ovviamente è un posto dove vengono organizzati trekking all inclusive con insomma jeep, tende, eccetera eccetera. Il paesaggio è molto vario, estremamente vario. Per noi europei, nella fattispecie italiani, quello che desta particolare interesse è probabilmente il paesaggio delle montagne, nel senso che i colori sono diversi rispetto a quelli a quali siamo tradizionalmente abituati. Ci sono queste montagne rosse, letteralmente rosse, e quindi io adesso non sono un geologo, però immagino... Ma rosso tipo Grand Canyon? Esatto, tipo Grand Canyon, e che però si alternano a montagne di sabbia, e quando dico montagne di sabbia non parlo di dune, parlo di vere e proprie montagne di sabbia, quindi color grigio scuro. Quindi immaginiamoci il rosso, il grigio scuro, sullo sfondo la catena del Tian Shan o del Pamir, che sono o del Kunlun, che sono quelle che ci sono nello Xinjiang, con monti tradizionalmente rocciosi e picchi innevati, ghiacciai. Quindi allora immaginiamoci questi continui contrasti sotto un cielo tendenzialmente terso, a cui è dovuto, secondo molti, anche le grandi escursioni termiche di quella zona, altra caratteristica, e un fondovalle che in genere è o stepposo o desertico oppure attraversato da qualche fiume, qualche corso d'acqua, e quindi immaginiamoci questo caleidoscopio di colori. E allora il caleidoscopio dello Xinjiang ci sta introducendo a questo viaggio, naturalmente radiofonico, mentale, il nostro amico Gabriele Battaglia, fotografo, blogger. E a proposito di fotografia, parliamo proprio del suo soggetto prediletto, i volti che ha fotografato in Cina e le differenze somatiche dello Xinjiang con la Cina di Pechino o della costa orientale. Pare che saltino subito all'occhio. Forse lo spettacolo di biodiversità più entusiasmante è proprio quello dei volti. È la Cina che non t'aspetti lo Xinjiang, perché per noi, che un po' forse con i nostri stereotipi pensiamo alla Cina come, e ai cinesi come sostanzialmente gli Han, che pure sono oltre il 90% della popolazione, nello Xinjiang invece compaiono queste figure molto più simili alle nostre di faccia alla fine, cioè di indoeuropei con i nostri volti, i nostri anche volti affilati, i nasi lunghi rispetto agli Han, che sono le cose che per, diciamo, gli Han sono quelle più notevoli da ravvisare nei nostri volti, e queste caratteristiche che vanno dal medio orientale all'iraniano, piuttosto che proprio facce simili alle nostre, cioè capelli biondi, occhi azzurri profondamente azzurri. E torneremo prossimamente insieme a Battaglia nello Xinjiang. Per l'intanto vi auguriamo un ottimo weekend, ci sentiamo naturalmente lunedì con le ultime cronache delle elezioni elettorali americane, delle cronache elettorali americane. Io sono Stefano Vistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte, Jeff Soming e Radio24.it. Andiamo in replica stasera alle 9 oppure lunedì alle 4 qui su Radio 24. way to